Roberto Di Varese, cambia, metti sulla Zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla Zanzara, vai! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Era offensivo, era sgradevole, era disgustoso. Vuole che vada avanti? Una volta ha voluto che approvassi un concorso in cui regalava una tazza del gabinetto all'ascoltatore che produceva le feci più grosse, in onda. Immagini l'organizzazione logistica. Ma che mondo è questo ormai, che cosa? Gelsomino da Roma. C'era un investigatore privato. Pronto? Si chiama Gelsomino. Sì, è il professore. Che dice? Pronto? Prego. Buonasera. Tutti gli hanno dato gli auguri per la guarigione. Ma no, non me ne frega un cazzo, guarda. Per il ritorno, ecco. Io invece gli dico, se se ne stavano altri 2 o 3 mesi a casa, era meglio. Sì. Perché lei, mi meraviglio che l'ordine dei giornalisti, sì. Lei è un giornalista? Boh. Ancora non la buttano fuori? Boh. Perché lei è la mondezza del giornalismo. Bene. Lei deve andare a vendere il pesce a Piazza Vittorio, direttamente. No, Piazza Vittorio è meglio Campo di Fiori, più vicino a casa mia, però. No, Piazza Vittorio, ci sono più borgatari. No, deve fare. Guardi che Campo di Fiori è più vicino a casa mia, è meglio. Lei, Greta Cruciani, la devono cacciare via dall'ordine dei giornalisti. Ma è meglio, è meglio Campo di Fiori. Lei offende la categoria dei giornalisti. Guardi. Cioè, è una cosa indegna la sua trasmissione. Questi giorni che lei è stato male, è stata una trasmissione fantastica. Senza urlare, senza parolacce e senza offendere chi telefona. Lei è un fascistone. No, veramente si, no, però. Si tenga cara la Santa Anchega, Spalli, sì. E Sallussi, mi raccomando, se li tenga, sì. Cari. Se si ammala un po' più spesso è meglio, sì, no, veramente, per tante cose. Vabbè, io faccio il tassista, sì. Devo spegnere la radio quando sento la Zanzara, perché i clienti dicono, ma che radio è? Radio Parolaccia. Quel poveraccio di Parenzo, che io gliel'ho detto due o tre volte per la strada, sì. Che lui è diventato il zimbello del giornalismo. Tu così ti guardo meglio. No, è lei che deve andare, ma da un veterinario, no, in ospedale normale, in una clinica per animali. Hai capito che introduzione che t'ho fatto? Vabbè, questo sta a dormire. Questo dorme, arrivederci, dorme oggi. Parenzo, nel giorno in cui Letta presenta le dimissioni, dorme sul treno, dorme, Parenzo. Cosa ti devo fare? Ma poi uno che non. Di uno poi. Poi dice che non deve mandare a fare in culo la gente. Come fai a non mandarlo a fare in culo? Cioè, come fai a non mandare a fare in culo uno così? Cioè, è molto difficile. Uno si deve trattenere. Vabbè, ti trattieni 1, 2, 3 volte. Ma che succede? Che c'hai? Voi siete lì, 2 cenciosi, pidocchiosi, la vergogna dell'ordine dei giornalisti, vi divertite e vi pagano anche per farlo. Paolino Liguori! Eccolo là. Stiamo andando con Parenzo in treno, stiamo correndo sulla Freccia Rossa da Renzi. Come da Renzi? Parenzo. Scusami, però Paolo. Abbiamo preso la freccia che non ferma a Firenze, quindi arriviamo a Roma, quello è già tornato a Firenze, mannaggia. No, non ho capito bene, avete sbagliato freccia? Abbiamo sbagliato freccia perché noi volevamo andare da Renzi, allora abbiamo preso subito la freccia a Milano, ormai sì. Comanda lui e noi subito ci siamo allineati. Sì. Comanda, c'è anche Sircana qui in treno con noi, correvamo. Abbiamo preso il treno, siamo saliti, adesso scendiamo a Firenze, lui torna da Roma e invece non ha fermato a Firenze, stiamo andando a Roma. Vabbè, a che ora arrivate a Roma? E che ora arriviamo? Arriviamo alle 7 a Roma. Parenzo qui è stravolto perché vuole buttare dal finestrino all'altezza di Firenze, ma non l'hanno, l'hanno fermato. Senti Paolo, io voglio capire una cosa, ma questo Renzi ha fregato Berlusconi, diciamo la verità, fino al 2018. Ha fregato tutti Renzi. Guarda, il fine giustifica i Renzi. Il fine giustifica Renzi. Il fine giustifica Renzi? Che vuol dire il fine giustifica Renzi? Sensi. Vabbè, ho fatto bene. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Abbiamo capito che Parenzo è in treno insieme a Paulino Liguori, e forse insieme a Sircana, dicono. Sentiamo un po' di roba di oggi, anche se c'è poco, Ci sono questi cantori dell'epoca renziana, questi che pensano che adesso arrivi il sol dell'avvenire. Questi che pensano che arrivi ormai, no? Quello che aggiusterà tutto. E che si permettono, e con questo torniamo a ieri, e che si permettono alla direzione del Partito Democratico di fare anche delle citazioni letterarie, cioè accoltellano Letta. Poi volano alto con le citazioni. Prendiamo per esempio, che ne so, Gentiloni che cita Karl Kraus. Mi fanno orrore queste cose. Karl Kraus dice che i deboli dubitano prima di prendere delle grandi decisioni, mentre i forti dubitano dopo averle prese. Bravo Matteo! C'è un altro, per esempio, che giustifica l'accoltellamento a Letta con, citando, che ne so, Emily Dickinson, la concia. Sentiamo Emily Dickinson. E ci avevi 100 punti per Fiorenza. È una delle più belle poesie di Emily Dickinson. Dice Matteo che non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamo chiamati ad alzarci. Vai, vai, Matteo. Avevi detto, che ne so, Realacci che cita il barone di Munchausen. Un'idea ce l'avrei. Aria, vai. C'è una bella immagine del barone di Munchausen quando lui rimane impantanato in una palude. Caro Matteino, anche io sono un fiorentino e quando viaggio in giro sento dire che porto questo accento che rallega. Oh, c'è il fratello di Letta. Dell'Italia, ma com'è che mi rattristo. Vincenzo Letta, incazzato come una biscia, Parenzo, chi c'è? Parenzo o Liguori là? No, no, sono tornato io. Liguori è qui al mio fianco, che lui viaggia in business e io sono suo ospite perché ero in premio. Davanti a me, a pochi metri, c'è il signor Sircana, che gli ascoltatori della radio ricorderanno. Vabbè, ma chi se ne frega, o parla oppure a pochi metri c'è Sircana, che è stato un uomo, uno di quelli, uno dei fedelissimi di Prodi. L'Italia, all'epoca di Prodi, forse sarebbe interessante chiedere se ha sentito il professor Prodi in queste ore e se vuol commentarci qualcosa su Renzi. Forse sarebbe interessante, ma capisco che è meglio occuparsi di cazzi e di canguri. No, ma che cazzi e canguri? Manco hai ascoltato te, chiediglielo. No, no, ho ascoltato tutto perché ho chiediglielo, sentito audio, chiediglielo, questi chiediglielo audio che hai mandato. Chiediglielo. Passano a portare adesso, sì, perché vabbè, devo attraversare Vincenzo il vagone, Letta, che è nel vagone del silenzio, capito? Vincenzo Letta che dice non voterò più Partito Democratico. La cosa poi triste è appunto vedere dentro al Partito Democratico, partito che io votai una volta, ecco, ma figuriamoci se lo voto adesso, cioè pensare alla propria autoconservazione, sopravvivenza. Questo è il clima in Casaletta, ma noi abbiamo un grande notista politico, caro Parenzo, un grandissimo notista politico. Lo sai chi ti ho invitato stasera, David? Chi ha invitato? Chi ha invitato? Chi è? Paolo? Ma perché ti ripassa il tempo? Cercare circa nel vagone del silenzio. Ma lasciamo perdere. Nel vagone è come le urla dal silenzio. Qui è terribile questo treno. Va bene, da Los Angeles, Rocco Siffredi. Rocco! Allora, caro Parenzo, tu sai che ci sono delle regole nel mondo della radio, no? Nel mondo della comunicazione telefonica, delle regole. Cioè, tu non puoi a un certo punto andare a cercare una persona mentre una è in diretta. Cioè, non è una cosa che non esiste. Perché io chiamo una persona... Chiamo una persona al telefono, signor Parenzo, e mi risponde un altro cui tu hai lasciato il telefono. Liguori? Sì, ma ho capito, ci avevo già parlato con Liguori, volevo te in quel momento. No, cioè... ma Liguori l'ho liquidato e l'ho mandato nel suo mondo, diciamo. Vabbè. David? Sì, vai, vai, vai, picchia duro. Mi piacerebbe andare a fare in culo. Oh, bene. Il nostro analista politico di oggi da Los Angeles, Rocco Siffredi. Rocco! Ciao, mi senti ora? Bene, bene, come stai, caro? Beh, come sto? Sto alla grande. Devo girare una paio di scene. Ora che finisco tornerò qualche chilo in meno, però sto bene. Scusa, ma che stai facendo in quel di Los Angeles, caro Rocco, dove ti rechi ogni tanto? Mi sto facendo tutto il programma 2014 dei miei film, tutto in America. Che purtroppo dalle parti nostre oramai le ragazze fanno il doppio lavoro, quindi trovarle libere è difficile. Invece qui ancora credono in questo lavoro che ha dato tanto, tanto, tanto all'umanità, insomma. Scusami, ma tu quante scene fai al giorno? Quante te ne fai al giorno? Tanto per chiarire ai nostri ascoltatori, nel giorno in cui cade governo Letta. Guarda, noi stiamo girando tutti i giorni. Io ne faccio una, perché oramai è 50 anni, non è che ne puoi fare più 3-4. Ah, una te ne fai, una scena. Una fatta bene, una fatta Vabbè, bene. Pensavo... Una fatta bene, perché poi devo dirti la verità. Sono molto contento perché qui ho una fila di ragazze che vogliono lavorare con me per il fatto che mi chiamo Siffredi, quindi io dico, ma guarda un po', ancora tiro. E allora uno, insomma, dal momento in cui c'è anche il piacere, ci si diverte di più. Vabbè, ma che ritmo sei quotidiano? Numero, donne? Io praticamente tutto il mese giriamo 73 ragazze. Sì. E quindi praticamente credo che almeno una quarantina le giro io. Una quarantina, quarantina al mese. Vabbè, siamo a ritmi, insomma, normali. Sì, normalissimi, ma ti dico la verità, però sì. Qui in America sono molto molto molto forti, la sessualità è molto estrema, quindi si fanno scene molto lunghe, 3-4 ore, e queste non dicono mai smetti. Ammazza, il problema qua è che tu ti puoi anche consumare, ma queste non dicono mai stop. Però, caro Rocco, bisogna stare attenti, lì in America c'è un casino con questa storia delle malattie, cose. Lo so, ma guarda, allora ti dico la verità, noi stiamo lavorando con test massimo una settimana, qui la regola è di due, massimo di una settimana. Io, tu pensa, sono qua già da 2 settimane al secondo test che faccio e devo fare ancora, sono qua fino al 6 marzo, devo farne ancora altre 3-4 proprio per evitare qualsiasi tipo di problema. Mi raccomando. Fermo restando che questi personaggi HIV positivi che sono arrivati venivano dal mondo gay. Adesso non voglio, per l'amor di Dio, fare nessun tipo di polemica. Come no? Però lì, nel mondo gay, che prima era separato, il mondo etero e gay era separato, lì non si usano i test, si lavora direttamente col preservativo. Ah, poi si sono mischiati, va bene, ho capito. No, si lavora direttamente col preservativo, quindi significa che tra di loro non se lo prendono, però se vengono a lavorare nel mondo etero, dove il preservativo va meno di moda, può succedere questo. Capito, Parenzo? Beh sì, i dettagli di questa augusta conversazione dimostrano che il vecchio Siffredi a 50 anni ha ancora qualcosa da dare, insomma, mi pare. No, mi pare ancora tanto da dare. No, Parenzo, scusami, Rocco, ma è arrivata l'eco a Los Angeles. Aspetta, Parenzo, adesso ti do la linea. È arrivata l'eco del cambio di governo, cioè a te che come stai no, lì. Come no, ma io seguo sempre Corriere.it, Cicom, seguo sempre. E allora fra un set e un altro mi documento. E allora che dici di Renzi? Che dici? Speriamo bene. Ho capito, ma ti ispira qualcosa? No, Renzi no. Ma guarda, personalmente tutto quello che c'è stato finora è stato solamente visto, insomma, hanno cercato di fare, ma si è fatto. Cioè, lo voteresti o no? Ma non lo so, io non ho mai votato nessuno, perché votare però, lui 39 però, anni, però, 39 a qualcuno, anni. A qualcuno bisogna dar fiducia, credo, sennò diventa veramente complicato. E dunque se magari tanti in Italia non si vota più, comunque quando andremo a votare un'altra volta, cioè sto Renzi, 39 anni, un leader giovane che vuole, che fai? Potresti votarlo? Sì, potrei votarlo. Il vero erede del presidente o no? Può essere, secondo me sì. Non da quel punto di vista, perché da quel punto di vista mi sa sono molto diversi. Invece senti, tu che conosci bene il presidente, sai che è da queste parti che lo invito sul mio set. Ma no, figurati, il presidente sta a Roma, in Sardegna per le elezioni, ci sono le elezioni in Sardegna. No, figurati, no, ma è una battaglia persa quella di invitare nel tuo set, una battaglia persa. Cioè, sì, tu sei, ma sì, ma non ce la fai, su, ma ti pare che quello si sputtana? Cioè, per carità, lo puoi fare tu, eccetera, non è che il presidente viene là sul tuo set, dai. Parenzo, che c'è di novità? No, no, secondo me invece, no. Io una volta ho incontrato una persona molto amica sua. Però che mi ha detto che lui mi stima tantissimo, sì, e che non è mai dire mai al fatto che ci possiamo incontrare e passare una giornata su un set. Lui viene solo a guardare, tutto lì. Beh, guardare il top. Un mio amico mi diceva è molto meglio guardare che fare. Questo mio amico. Guarda, io sono invece dell'altro amico, quello che dice che è meglio fare che guardare. Beh, io sono della scuola di guardare. Guarda che la scuola del guardare non è male, cioè. No, assolutamente no. Io sono invece di quello che ti ricordi i santi, quello San Tommaso che dice io devo toccare, non ci credo. Io sono più di quella scuola là. Parenzo, il virtuale, non ti piace, ma in questo caso no, non è virtuale. Mi piace usare i sensi, eh? Parenzo, che dici tu? Parenzo? Guarda, non saprei a quale dei due partiti iscrivermi in questo momento. Avrei voluto girare questa vostra domanda al dottor Silvio Circa, però sentendo, diciamo, i termini della augusta conversazione è ritornato poco fa nella carrozza del silenzio e credo che lì rimarrà per i prossimi minuti, visto che siamo arrivati a termini. Vabbè, adesso non è che doveva intervenire per forza insieme a Rocco. No, però sai, ho passato il cellulare dicendo, guarda, dici di cosa parlate? Dico, no, ma c'è adesso il nostro Pane Bianco. Dice, come Pane Bianco? Dico, sì, c'è il nostro Angelo Pane Bianco che farà un'analisi da Los Angeles. Ah, dice, da Los Angeles, chi è che c'è? Ho passato il telefono. Ma non è vero. Ha sentito questo tratto di conversazione, ha sorriso, mi ha detto guarda, torno un attimo nella carrozza del silenzio. Ma scusa, ma se uno deve sentire sì, delle cose sulla vita, no, se uno deve sentire delle cose sulla vita reale, no, concreta, no, le sente dal signor Siffredi o dal signor Circala? Diciamo la verità, diciamola, no, tutta. Dai, su. Io lo sento da Rocco Siffredi, che è un pezzo di vita italiana. Signor Circala, quello che tu hai incontrato sul treno. Grazie. Chi è sul treno? Chi c'è sul treno? Io in questo momento sto esportando il Made in Italy in America, ragazzi. Non lo so, ma è un'esportazione di un Made in Italy particolare, diciamo, no? Particolare, comunque molto apprezzato, vi assicuro che è molto apprezzato e questo è importante. L'importante è esportare l'Italia buona, l'Italia quella, insomma, che piace, quella nostra. Potresti fare il ministro per Renzi, il ministro per il commercio con l'estero. Sì, non male. Senti, non ma in Abruzzo che succede? Che trombano tutti quelli dei ministeri, il presidente, gli assessori? Mai capito, ma qui trombano tutti. Io ho la nominata e tutti gli altri trombano, non hai capito come funziona qua. Tu che c'hai? Io ho la nominata, però alla fine io lavoro e gli altri trombano. Ma sto presidente Chiodi, voglio dire, ma dicono che ha uno, due amanti, una cosa pazzesca, sembra, uno lo guarda in faccia, sembra, no, una, come si dice? Ma mai fidarsi dell'apparenza, mai fidarsi. Poi si dice che il cane abbaia non morde, qui vedi? Evidentemente uno che all'apparenza non sembra niente, però vedi cosa nasconde, delle carte molto importanti. Ciao Rocco, a presto. Ciao. Ciao Merle, spettacolare. Sei ancora a casa, Simo? Sotto salice David, così mettiti comoda David, ma chi vuoi? Ti piacerebbe andare a fare in culo? Sì. Ci sei adesso? No. Renzi tradisce chi lo ha eletto alle primarie, dopo aver tradito chi ha creduto nella rottamazione. Si rimangia tutto e usa i suoi complici di partito per prendersi il potere senza passare dalle urne. Fa fuori come un killer Letta e soci e si prende la poltrona più alta alla faccia nostra. Nemmeno Berlusconi si è permesso una tale vergognosa scorciatoia. Avremo un premier abusivo, il PD non ha i numeri in Parlamento e deve raccattare il sostegno dei traditori di Berlusconi come Alfano e amici. Eppure il PD starnazza che le ragioni sono politiche e di programma e non beghe interne. La verità è che il colpo di mano di Renzi è stato permesso dal PD un po' per bruciare il sindaco di Firenze, un po' per tirare avanti e prendersi lo stipendio fino al 2018. Questo scrive un lettore del Fatto ed è una cosa che mi sento di condividere al, non al 100, al 200%. Che fai, stai muto? No, No, in realtà si potrebbe dire che la sfida di Renzi, con la banalità, inizia adesso. Vabbè. Il tradimento di quegli elettori che alle primarie hanno votato per lui. Sì. Lui dovrà dimostrare di tenerli. Sì, ma io non ho bisogno di questa roba qua. Non ho bisogno di questa roba qua. Non ho bisogno. Non ho bisogno di questa roba qua. Cioè, non ho bisogno di queste analisi finte. Ma non lo so, ma fai, inventati qualcosa. Non ho bisogno che tu ti comincia ad alambicarti. Adesso inizia la cosa. Sentiamo Berlusconi, va. Divertiamoci un attimo con Berlusconi. Sì, vabbè. Se vediamo Berlusconi da cappellaccio, è uno spettacolo assoluto. Sentiamo. Nell'ongiastra. Oglia, scusate, ma a me le olgettine sono rimaste dentro. Grande spettacolo, si sbaglia a pronunciare ogliastra, dice olgiastra e poi dice, beh, le olgettine mi sono rimaste dentro. Nella cabina elettorale, questa non l'ho capita tanto bene, eh? Sentiamo. Nella cabina elettorale, Dio ti vede, Stalin no. Quindi Ugo, cerca di mettere un po' di telecamere nelle cabine elettorali, poi faremo un altro messaggio, ma questo la prossima volta. Ma tu l'hai capita sta roba? Ma certo, no? Spiegamela. Beh, il detto è un detto antico che si usava veramente all'epoca, no? Vabbè, della Democrazia Dio Cristiana, ti ricordi? No. Sì. Ti ricordi all'epoca della campagna della Democrazia Cristiana, quando tra i comunisti c'era la guerra fredda, eccetera, eccetera, eccetera. E lui scherzava, dice, mettiamo delle telecamere, siccome lui è l'uomo delle televisioni, così vediamo se veramente votate per Forza Italia. E poi non ha torto quando dice, io sono l'ultimo presidente del Consiglio eletto dal popolo. Io sono l'ultimo presidente del Consiglio che è stato eletto dal popolo. Silvio, Silvio, Silvio. Beh, devo dire che tra questi nani totali svetta ancora lui, non c'ho cazzo da fare, dai, svetta, non c'è niente da fare, il pregiudicato, quello che vuoi. Alla fine questi voti se li è presi alle elezioni. C'è poco da fare, questi fanno le trame di palazzo. Fanno le trame di palazzo, non sono capaci di andare di fronte alla gente perché c'è Napolitano, perché c'è l'Europa, perché c'è il semestre europeo, perché non c'è la legge elettorale. Semplicemente perché è una battaglia interna al Partito Democratico, non è che c'è una cosa vergognosa. Alla fine c'è questo signore qua, 76enne, pregiudicato, con le condanne, che sembrava essere fuori dalla politica, che invece andrà alle consultazioni con Napolitano ed ha giustamente, ed ha giustamente la forza per dire, io sono l'ultimo presidente del Consiglio eletto dal popolo. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Al via le consultazioni senza un passaggio parlamentare. Il Colle serve una soluzione veloce, continuare sulla strada della legge elettorale e delle riforme più urgenti. Letta in mattinata presenta le sue dimissioni irrevocabili, poi saluta e ringrazia tutti quelli che lo hanno aiutato. Ogni giorno scrive come se fosse l'ultimo. Renzi prepara il nuovo governo, stamani ultimi impegni da sindaco a Firenze. Siamo in un passaggio particolare dal punto di vista politico e istituzionale. Forza Italia meglio se Letta alle Camere, manteniamo l'impegno sulle riforme, 5 Stelle non andiamo alle consultazioni perché sono una presa in giro. PIL torna positivo, non succedeva dal 2011, la staffetta non preoccupa i mercati, lo spread cala ancora, Merkel soluzione rapida, USA pronti a lavorare con Renzi, nel giorno della festa degli innamorati torna la mobilitazione globale contro la violenza sulle donne, flash mob planetario per una giustizia troppo spesso negata, finisce con l'espulsione dall'Italia, la protesta dei 13 migranti del CIE di Roma, si erano cuciti la bocca per ottenere condizioni più umane. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito. La seconda sezione della Cassazione nell'anno precedente 2012, su due anni ancora precedenti, ci aveva assolto con formula piena. E allora, se il processo fosse andato alla terza sezione, la mia assoluzione sarebbe stata certa. E allora si inventarono che metà del processo... Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Novità dal mondo padano. La Padania guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Se ascoltate la Zanzara, se ascoltate il Parenzo, che non è neanche conduttore perché se andate a vedere lo sito non è considerato conduttore, o se ascoltate il Ciociaro Cruciani, non ascoltate me, perché se mi entra nel cervello, no? In quella dimensione un po' spirituale, onirica, fantasiosa, immaginifica, che voi ascoltate sia me che Parenzo e Cruciani che la Zanzara, mi sento come se io fossi sporcato. Mi sento come se avessi che fare, avete presente, se io mi trovassi a che fare come una persona con le croste, con i porri, con le eruzioni cutanee, ti senti sporcato di fronte, ti senti lordare se entri in contatto con persone di questo genere. Se io sento che un ascoltatore ascolta la Zanzara e poi ascolta me, dentro di me scatterebbe questo meccanismo, che è assolutamente un meccanismo irrazionale, ma è anche irrazionale e involontario, ma anche istintivo, insopprimibile. Mi sentirei sporcato. Quindi fatemi un piacere, se ascoltate la Zanzara, non ascoltate me. Non ascoltate me, almeno per qualche giorno, perché altrimenti mi sentirei sporcato, contaminato, mi sentirei. Non che io mi senta puro. Falso che ci spreme. Ve l'ho detto, è come una strada, sapete quei vicoli dove si orina, dove ci sono i ratti, dove ci sono le cose sporche. Tu ci passi in mezzo, ti senti sporcato un po'. Non è un senso di disagio. Ecco, se io sapessi che voi ascoltate sia me che loro, vi dico, fuori da ogni dubbio, ascoltate loro, non ascoltate me. Ma vogliamo dire, per una volta, questo Pellegrini che è veramente un coglione, Ma io vado dicendolo da quando lei lo ha introdotto in questo consesso, che questo signor Pellegrini, poi il paragone con i vicoli lordi di Pipì, così ha detto il nostro, sì, nostra, sì, trasmissione, eh? Sì, sì. Ora, voglio dire a Pellegrini, non è che la sua Radio Padania sia esattamente Buckingham Palace, capito? Sì, ma al di là di questo è proprio un cretino, è proprio un deficiente, perché ci crede sul serio, cioè non stava facendo il coglione, non stava facendo dell'ironia come noi. Secondo me stava scherzando. No, ci crede sul serio, è proprio un cretino, sentite il tono della voce. Allora è sciocco. Max da Firenze, buonasera Max. Ciao Cruciani. Dimmi. Tanto, insomma, io non capisco un cazzo di politico, ma ti dico una cosa, Cruciani. Dimmi. Renzi ha preso 3 milioni di voti, sì. Bersani ne ha presi 9, ora lui governa con i voti di Bersani, con tutti quelli che ha detto adesso a lui? No, ma non ho capito, non ho capito questa cosa qua, lui sicuramente in Parlamento ha i parlamentari che sono stati eletti con una legge dichiarata peraltro incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Tutto, però il candidato del centro-sinistra, no, ma soprattutto sono stati, ma ve lasciamo perdere questa cosa qua, Max, sono parlamentari che sono stati scelti con le parlamentarie da Bersani. Io da Vip Parenzo voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Una parola d'uma di rate, turista e cittadino. Parenzo, fai ridere. Ma vogliamo sentire la voce, non c'entra niente con la politica, adesso ci torniamo subito. Dentro da Minzolini. Di Raffaella Fico. Raffaella Fico, sai chi è Raffaella Fico, Parenzo? Sì, una starlet, no? Sì, ma chi è? Oltre a essere una starlet. È un intellettuale, sarà, avrà delle idee, delle cose. No. Oltre a essere una starlet, un personaggio del mondo dello spettacolo, sì, non sai chi è? Una starlet, chi è? Sì, ma non sai chi è, che ruolo ha? È la madre di... La madre di un bambino, di un ragazzino, no? Mamma mia, ragazzi. Ma del figlio di Balotelli, sarà la madre di un bambino che è il figlio di Balotelli, ma non è per questo che, credo che ci interessa qua, rispetto alla politica, credo. No, ma che c'entra? Ho detto una cosa che non c'entra niente nella politica. T'ho detto. Infatti non capivo perché sai. La madre, non lo sapevi, hai letto su Google figlia di Balotelli. Comunque, Raffaella Fico, madre di Pia, figlia di Balotelli, quel rumore, che dice: mia figlia deve viaggiare in prima classe. Perché tutti i calciatori fanno viaggiare le proprie figlie in prima classe. Io vorrei mandare serenamente a fare in culo la signora Fico. No, ma perché entri in questa dimensione? Sì. Come perché? Perché? Secondo te è una cosa normale quella che ha detto? No, guarda, però se vuoi parlare seriamente di questa cosa qua, che non so se merita un'attenzione senti, dettagliata. Evidentemente lei dice, siccome forse l'ha argomentata male, ma evidentemente dice questo, come qualsiasi madre. Che dice? Se il padre guadagna tot e la tratta... Ma non fa una metafora, non ci sono metafore. No, dice, qui non è metafora, ma non essere stupido sempre, non far la polemica per forza sempre. Avrà detto, siccome il padre guadagna tot, deve trattare la figlia in modo adeguato. Ritiene, sbagliando forse, che trattare la figlia in modo adeguato sia farla viaggiare anche comodo. Dice, siccome guadagna tanti soldini e non è un metalmeccanico, può farla viaggiare in prima classe. Credo che sia questo il senso. Senti la puttanata. Mia figlia nel crescere saprà chi è il papà e nel vedere magari altri figli di calciatori, non so, un figlio di un calciatore viaggia in prima classe in treno, non vorrei che un domani lei mi chiedesse come mai noi viaggiamo in seconda e perché loro in prima, se anche il mio papà fa il suo stesso lavoro. Va bene. Senti, Raffaella, hai sentito Mario Balotelli? Ti ha chiamato? Vi siete parlati? Cioè, tu ti rendi conto o no? Sì, cioè, ti rendi conto della coglionaggine totale? Mi pare sciocco dirlo così in televisione davanti a te. Mi pare una stupidaggine questa. Poi, se ha delle rivendicazioni da fare, dei soldi del marito, ma quello non mi interessa, ma che c'entra? Quello è un altro discorso. È la mentalità. Sì, è la mentalità. È evidente la mentalità. Che è una stupidaggine, ma sarà, come dire, preoccupazione di madre quella che la figlia abbia tutto ciò. Vabbè, non è capito nulla. Fabio da Catania, dai. Benissimo. Sentiamo la gente. Luciani, Fabio, buonasera. Dimmi. Dottore Luciani, buonasera e complimenti. Però soltanto a lei le faccio, perché il dottor Parenzo difende anche l'indifendibile, per cui non si potrebbe neanche fare un ragionamento. E quello volevo dirle questo. Dicasi mafia, tutto ciò io chiamo da Catania, per cui meno male vivo la città. Tutto quello che è sopruso, tutto quello che è... Sì, però appunto, andiamo al sodo, Fabio, sì, su. Al sodo, voglio dire questo. Sì, allora, l'atteggiamento del signor Napolitano è atteggiamento di un mafioso. Un mafioso, addirittura. Sì, Giuseppe, è un mafioso, ascolta. Perché è un mafioso? Perché è un mafioso, perché ha da 60 anni che gestisce l'Italia come vuole lui. Come vuole lui, io dico una cosa: da 60 anni, no, al massimo da 7, da 8. Sì, diciamo, no? Se voglio dire una cosa: all'opposizione, se anziché all'opposizione, anziché di 5 Stelle, ci fosse stato Forza Nuova o veramente qualche diciamo partito o movimento abbastanza rivoluzionario, ne avrebbero rotto il sedere, signor Napolitano. Io penso che alla fin fine è meglio che ci sia Grillo, perché Grillo... Ma questa è la solita teoria per cui Grillo avrebbe impedito il nascere di Forza Nuova, di Alba Dorata in Italia, che è una stronzata pazzesca. Perdonami, ma ti sembra Cruciani, ma ti sembra un atteggiamento normale? Guarda, io ti stimo, adesso che sei libero, il tuo pensiero lo esprimi come quando vuoi. Sì, ho capito, ma sono libero, però mica so cretino. Ma secondo te è un atteggiamento normale? Ci vanno a spendere milioni e milioni di euro per andare alle elezioni? Che cazzo ne facciamo fare a queste elezioni? Allora, in futuro si potrebbe fare anche una legge che le elezioni in Italia non sono più un governo presidenziale, che il presidente dice quello che cazzo vuole. Parenzo, perché come i coglioni qua a Catania, quando sono le elezioni, si sprecano miliardi. Vabbè, Fabio, grazie. Marco da Genova. Marco? Mi ritengo ancora un libero pensatore, elettore di centrodestra. Vediamo. Un libero pensatore non iscritto a partiti. E vabbè, non è anche sono se fosse iscritto a partiti sarebbe libero pensatore lo stesso. Sono abbastanza disorientato da questo terzo governo, da golpe di Repubblica Militare sudamericana. Mi chiedo due considerazioni. Tutti i soloni costituzionalisti che si stracciavano le vesti, che facevano i girotondi, D'Aleschi in primis, per il lodo Alfano, dove sono oggi? non li sento parlare, non li sento indignati, non li sento perché dire dovrebbero, perché dovrebbero essere indignati? Della perché è il terzo governo di seguito che non si va a libere elezioni. Ah, certo. Quindi mi chiedo, tutta questa cioè, gente... Cioè, se la stessa manovra di Renzi l'avesse fatta un governo di destra, magari un Berlusconi, no? Sarebbe successo l'inferno, avrebbero mobilitato... Verdi, gialli, grigi, blu in piazza. Avrebbero mobilitato gli Zagrebelski, avrebbero mobilitato... È quello che dico, Cruciani, dov'è Zabreschi adesso? Chiamatelo, no, chiamatelo, chiamate lui. Ma e che chiamate? Chiamate per fare che beh, qualcuno fatto... però lo ha detto adesso, non fare troppo ma il... Ma chi ha detto? Ad esempio detto. La professoressa detto, di diritto Parenzo, costituzionale Lorenza Carlassar. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega appunto, va bene, chi se ne per frega? Per piacere. Che allora non sono i miei amici, la professoressa di diritto costituzionale Carlassar, che ha fatto parte anche della commissione dei saggi del passato governo, ha detto esplicitamente che questa è una manovra opaca e che il ricorso alle urne sarebbe stato la cosa da fare. Non è certamente quello quindi, che avrebbe detto se Berlusconi l'avesse fatto Berlusconi. Adesso dai. L'ho citata, non con il virgolettato. Se vuoi lo prendo e te lo dico esattamente che parole ha utilizzato nell'intervista. Marco, che vuole aggiungere? Marco, che vuole aggiungere? Oh. E poi seconda considerazione. Secondo me tutta questa trama è stata ordita da D'Alema, la Bindi, Finocchiaro, tutto il vecchio PD. Ma che c'entra? Che questi non contano più niente. Cuocendolo a fuoco lento con sto balletto delle primarie, mettendogli contro un carnea di qualunque come Cooperlo. Vabbè. Ha vinto con la grande maggioranza le primarie, se lo bruciano perché per due anni non farà niente, gli diranno anzi sei stato alleato del ladro, del pedofilo, del mafioso Berlusconi. Vabbè, la sua teoria è che vogliono cuocere a fuoco lento Renzi. Vabbè, sarebbe stupido lui, lento, va bene, grazie. Ma quanto nuovo. Parla questo? Grazie. Abbiamo con noi, beh, caro Parenzo, sarà difficile andarli contro, sarà difficile. Perché noi siamo dalla sua parte e sono due giorni che lo diciamo. Vediamo. Per l'ennesima volta siamo dalla parte del signor Pippo Civati. Buonasera. Ah, sì, certo. Buonasera. Eccoci qui. Non so se gli facciamo un favore a dire così, forse no. Credo che lo danneggiamo, beh, ma siccome però. Siccome ce n'erano così pochi in direzione nazionale. Beh, siete anche voi due, fa piacere. Beh, purtroppo noi non siamo, siamo con te, Pippo. Beh, sì, perché la Zanzara è con te. Vabbè, il compagno adesso... Parenzo è con te. Sei stato bravo con quei 16 ad arginare quella manovra del partito. Cruciani, Grillino, ex Lega, ex Forza Italia, ex tutto. Il fatto che lui dica viva Civati, Pippo, fidati, ci conosciamo da 15 anni, preoccupati. Ma non è vero, già l'ho detto quando ci furono la primaria. Preoccupati, caro Pippo, perché tu sei bravo e sei il futuro ma di quel partito. Ma io lo dico rispetto a quello, che, a quello che è successo adesso, mica in assoluto, non lo dice mai in assoluto. No, ma che c'è? Stiamo parlando di questa vicenda. Ma io voglio capire una cosa, si può dire, si può parlare di golpe, ma in senso lato... Pippo, in senso berlusconiano, no. Diciamo. Io non penso che si debbano usare parole eccessive, è un pasticcio, soprattutto per chi pensava di votare Renzi alle elezioni, di andarci presto, di superare la palude. Io ho l'impressione che questa palude, invece di asciugarla e di bonificarla, la stiamo allagando. Questa è la preoccupazione che ho, però non parlerei di golpe. No, forse no. Però da un certo punto di vista Berlusconi oggi rivendica una cosa in Sardegna, no? Sta facendo dei comizi in Sardegna per le elezioni. Sta dicendo, beh, in fin dei conti io sono l'ultimo presidente del Consiglio eletto dal popolo. Poi ne sono venuti tre, diciamo, due, e poi adesso fra qualche giorno un terzo, perché è tutto già scritto, le consultazioni, diciamo la verità, sono una mezza farsa. Da questo punto di vista Grillo sbaglia a non andarci, però ha ragione. Cioè, sono consultazioni, per carità, la prassi costituzionale. Beh, no, fa bene invece in questo caso. La prassi costituzionale, però, è tutto scontato. Giustamente oggi Giannino diceva una cosa, ma perché non si velocizza tutto via Skype e si fanno delle cose veloci, senza queste cose rituali, con il segretario del Quirinale, i corazzieri, quelli che escono e tutte le cose così. Però da un certo punto di vista Berlusconi è meglio di Renzi o no? Da questo punto almeno lui a Palazzo Chigi ci è arrivato con le elezioni o no? Guardi, io ho finito il mio intervento ieri dicendo esattamente la stessa cosa. Speravo che Berlusconi non si accorgesse del nostro impasse e invece se n'è accorto molto limpidamente, tanto che le le elezioni regionali in Sardegna sono delicate. Io ero a Cagliari ieri sera e non hanno molto apprezzato la mossa, diciamo, del PD delle ultime ore. C'è la gente che era lì, dici tu? Sì, anche perché la Sardegna l'ultima volta è stato il momento in cui poi Veltroni abbandonò la segreteria, no? Ricorderete. Cioè, capito, tu stai dicendo che se il centro-sinistra non riesce a riconquistare la Sardegna è già una un colpo? È un peccato, perché lì abbiamo un bel candidato, ma certo questa crisi che i nostri elettori non hanno capito potrebbe penalizzarci, potrebbe farci perdere il governo della regione. Non credo che avrà nessuna conseguenza o avrebbe nessuna conseguenza sul governo nazionale. Ma scusami, Civati, ma tu senti nelle sezioni un clima un po' di rivolta? Sezioni, insomma, nei circoli, nelle cose. Sì, come si chiamano? Si chiameranno sezioni ancora? C'è un clima di rivolta un po'? Ci sono i renziani della primissima ora che sono un po' spaesati, ecco, da questa cosa. E poi ci sono gli elettori più di sinistra che sono un po' stufi di governare con Alfano, Formigoni, Sacconi, Lupi, Giovanardi. Quindi c'è un clima di rivolta, sì, questo si può dire. Nella base, anche tra i renziani, ci stai dicendo? Beh, diciamo che c'è veramente molto disorientamento, perché molti hanno votato Renzi e io lo riconosco sempre, no? Avendo perso rispetto a lui in modo clamoroso, hanno votato Renzi però perché pensavano di scegliere un candidato che vincesse alle elezioni politiche. Sì, così è un po' complicato. Quando io ti ho chiesto prima di Berlusconi, cioè Berlusconi è più coerente di Renzi, almeno lui dice alle elezioni, cioè a Palazzo Chigi ci va con le elezioni. Da questo punto di vista si può dire che Berlusconi è più coerente di Renzi? No, diciamo che Berlusconi andava battuto, come Renzi ha sempre detto, attraverso le elezioni, mentre lo schema che Renzi sta seguendo è esattamente quello che ha sempre contrastato Renzi, anche io personalmente, insomma, quello dell'allungamento dei tempi del palazzo, così che poi dopo si possa superare la questione Berlusconi. Senti Pippo, ma hai fatto una telefonata? Non sei mai stato a favore del governo Letta? Hai sempre avuto una posizione abbastanza coerente dall'inizio della vicenda, dopo le elezioni, insomma, da un anno a questa parte. Hai fatto una telefonata a Letta? Perché insomma tu sei stato quello che ieri si è inventato questa metafora meravigliosa di Letta fatto a pezzi come la giraffa, no? Come la giraffa di Copenaghen. Gli hai fatto una telefonata per dire, vabbè, guarda, una telefonata, che ne so, di o no? No, gli ho mandato un messaggio nelle ore più difficili, perché anche per dirgli che io non ero d'accordo con lui, ma non mi piaceva il metodo, ecco. E che ti ha risposto? Se ti ha risposto? No, mi ha risposto ringraziandomi. Devo dire che Enrico Letta è sempre stato molto gentile con me nonostante le mie posizioni. Mi chiamò dopo le primarie per dire che anche lui era arrivato terzo e era andato a fare il premier. Erano anni, insomma. Ma dovrebbe avere un ruolo secondo te, oppure? No, non credo che lo accetterei. Non accetterebbe. Tu invece faresti ministro? Molto... Tu faresti ministro di Renzi? No, io non lo faccio, non credo che nessuno me lo chieda più, diciamo, l'ho messo in conto, nessuno me l'aveva chiesto. E poi insomma, faccio politica nel gruppo del Partito Democratico in queste ore complicate. Quando la zanzarina. Ti saluto, Cruciani! La mia noce. Ah, disgraziato! Sei blanco, mañana io sono stanco. Marco Reggio Emilia, buonasera. Baila col ritmo bueno, non le importa mucho, sino dov'è? Nicola? Pronto? Sì, andiamo, forza. Senti, io sono qui che sento per la prima volta e sono abbastanza contento di sentire tutti questi soloni, a cominciare da quelli del PD, eccetera. Io sono un elettore del PD che quest'anno non ha votato, però poi è andato a votare per Renzi. E allora? E allora ho sentito anche ora Scivati, ma di cosa sta a chiacchierare? Ma cioè, come di cosa sta a chiacchierare? È uno che si oppone a questa manovra di palazzo che ha portato Renzi al governo, perché di quello si tratta, di una manovra di palazzo. Non è una manovra di palazzo, come no? È una manovra politica. Ma sì, certo, va bene, politica, ma una manovra di palazzo, certo che c'è la politica, non c'è dubbio, la politica delle trame. È una manovra politica di una persona intelligente. Vabbè, ma quella è la sua opinione, io la rispetto, per carità. Cioè, lei pensa che... uno che ha capito che per fare una riforma elettorale chiaramente deve avere l'appoggio di qualche altro. La riforma elettorale si poteva fare anche con lui che restava segretario, Certo, infatti è quello che è successo, sono stati 3 anni, cioè un anno senza fare nulla. Ma non è vero, adesso lo stavano approvando. Pronto? Vittorio? Sì. Eccoci, che è successo? No, no, sto ascoltando, siccome il tema è appassionante che ieri è sorto di Berlusconi che va al Quirinale, ha determinato molto comprensibili reazioni. Sì. Vorrei dire che questa volta è per caso che non ci va Grillo, perché ha deciso di rifiutarsi, ma è stato il Quirinale Grillo o no? Ti risulta? Sì, una volta, forse. È pregiudicato anche lui. È andato al Quirinale? Sì. Sì. Allora, dal punto di vista tecnico, è pregiudicato pure lui. Non si può immaginare che sia diverso. Il signor Grillo, non eletto, e quindi fuori del Parlamento come Berlusconi, è pregiudicato e condannato per omicidio a un anno e otto mesi. Sì. Allora, se le cose valgono per l'uno, valgono per l'altro. C'è una specularità. Intendo dire che non possiamo immaginare che le regole valgano soltanto per l'uno, naturalmente regole etiche, che non corrispondono al dato oggettivo che il capo di un partito può essere un pregiudicato. E il massimo pregiudicato capo di partito si chiama Grillo, è un personaggio variamente passivo per molti versi, ha fatto le cose che abbiamo visto rispetto a istituzioni che possono essere più o meno rispettate, ma di natura vagamente eversiva, vagamente fascistoide, ma è un pregiudicato condannato a un anno e otto mesi per avere fatto morte tre persone per inavvertenza, un omicidio colposo, è una condanna più grave di quella di Berlusconi. Addirittura allora, più grave. Che non entri mai più nessun pregiudicato al Quirinale, il primo che non deve entrare, ma che è già entrato almeno tre volte, è Grillo. Questo volevo dire. No, ma una volta in realtà credo che sia andato una volta da... No, è andato, già parlato. È andato. Quindi a quel punto, una volta che va Grillo, può andare qualunque Berlusconi, il quale però contemporaneamente è certamente un condannato per evasione fiscale, cosa grave. Ma il paradosso che farebbe pensare è che in perfetta iperbole è anche il primo contribuente italiano. Allora mi dico, se Pavarotti, se Dolce Gabbana, se Valentino Rossi hanno avuto una multa, evidentemente chi ha pagato molte tasse e non ne ha pagate una parte, è una multa. Questa condanna ha un aspetto che non mi convince fino in fondo. Vale per lui, che è anche il primo contribuente italiano. Però scusami Vittorio, qui non si sta discutendo del tipo di condanna, si sta discutendo del fatto che c'è un signore che è stato da poco espulso dal Senato. D'accordo, ma l'altro non è mai entrato. Cioè, io dico, tecnicamente sono due extra parlamentari, capi di partito. I diritti di Grillo, che lui rivendica, sono i medesimi di Berlusconi, quindi non li facciamo entrare entrambi, non li facciamo entrare, ma non inventiamo nuove regole per una etica che vale solo per Berlusconi, ne abbiamo abbastanza, ci sono almeno 10 persone che hanno chiavato con rubi a pagamento e nessun giudice le ha perseguite, allora non è che tutte le regole, a me non me ne frega un cazzo di Berlusconi, che mi sembra politicamente totalmente bollito e inetto, ma l'azione giudiziaria, che è quella che io lamento da sempre avere cambiato la politica italiana, è a partire da Prodi, che fa tanto ieri a Santoro la vittima di chissà quale compravendita, e sa perfettamente che il suo governo è caduto per un'azione giudiziaria contro Mastella, non ha portato ad oggi ad alcuna condanna. Allora ancora una volta il tema è il tema di come la magistratura interviene a gamba tesa nell'attività politica. Tra l'altro oggi Grillo pubblica sul suo blog una specie di quiz, la notizia peggiore di San Valentino. Secondo lui, tra le notizie peggiori c'è Berlusconi capogruppo per le consultazioni al Quirinale, cioè dice sostanzialmente no, ha ragione, ma possono combattere come vogliono anche sotto pancia, cioè io sto dicendo il principio che riguarda noi e me ormai osservatore è che non si riesce a capire, io ritengo che l'azione di Berlusconi politicamente sia dai tempi miei, da quando sono stato cacciato, un'azione politicamente inetta e priva di ogni prospettiva reale, ma che debba poi immaginare che quello che fanno i magistrati è giusto, no, assolutamente no, non lo ritengo affatto, tant'è vero che faccio un altro esempio, a 2 chilometri, a pochi chilometri da Salento, c'è un paese che si chiama Campobello di Mazzara, dove abitava il fratello arrestato di Matteo Messina Denaro, hanno arrestato il sindaco antimafia per 2 anni, dopo 2 anni di carcere lo hanno prosciolto perché il fatto non sussiste, è ora di finirla. È ora di finirla con la magistratura che non è in grado di compiere atti reali, compresa questa stronzata della compravendita che vale per uno che si era già dato alla destra diventando presidente della commissione difesa del Senato. Però dicono che gli ha preso 2 milioni di euro no, in nero. Ma gli ha presi anche la Mussolini e Rotondi. le componenti del popolo della libertà però, avevano quello... finanziamenti. Questa è la storia vera, che è la storia dei finanziamenti della politica. Il dato di fatto è che tu, Grasso, gli ho scritto ieri, non puoi lavorare alle spalle di Woodcock e non dentro il Senato, che alla Commissione Difesa ha gli atti in cui si vede, e Schifani lo può dire in qualunque momento, che il signor De Gregorio è andato con la destra nel giugno 2006. Un processo per una volta di uno come Woodcock che andrebbe arrestato, perché con i soldi miei fa dei processi senza alcun fondamento di prova. Ma perché lo fa? Senza alcun accertamento dei fatti. Perché lo fa? Di finirla, questa magistratura che è fascista, che sceglie le sue vittime e stabilisce come se fosse credibile De Gregorio perché ha detto che ha dato dei soldi. Lo ha detto. Non è che lo ha, averlo detto vuol dire la verità. No, no, ha certo. Ha cercato di puntare merda su Berlusconi perché è uno sport molto diffuso e molto facile. Però scusami, Vittorio, perché Vutco... Vado a vedere le carte del Senato e vedo che non è vero. Perché Woodcock lo fa, secondo te? Perché è un incapace totale, non c'è un solo processo, che ha compreso quello Mastella, è lui quello di Mastella, è lui l'eversore, è lui anche quello del ridicolo Vittorio Emanuele IV, sì, che è stato arrestato a mie spese, e poi il processo di ritorno, sono tutti così, è lui! L'eversione parte da una magistratura che nasce con un teorema politico che fa cadere il governo Prodi e fa oggi risultare che quella caduta dipenda da De Gregorio, una nullità assoluta che per fare il patteggiamento ha sputato Berlusconi inventando che i soldi della sua componente erano per comprare il suo voto che c'era già stato. Le cose ce le so io e sono gli atti parlamentari, sì. Perché non sono accolti dal CIP? Cioè, ma secondo te si è inventato? Perché non sanno fare il loro lavoro, non sono magistrati seri, sono magistrati avventurosi che inventano teoremi e con questi rovinano l'Italia, compreso il Napolitano che naturalmente è il garante del patto Stato-mafia. Altra stupidaggine assoluta, assoluta! Beh, quella è il processo della trattativa, stai dicendo. Lì hai già stato il 21 del processo Mori. Abbiamo Di Matteo, che deve essere per forza, mi ha anche denunciato, e io l'ho denunciato perché vuole intimidirmi e impedirmi di parlare. Perché lì Corina, da 20 anni in galera al 41 bis, non può essere come quando era libero. Come Al Capone in galera, non è potente come quando era libero. Allora o lo Stato non funziona, il 41 bis non funziona, oppure non è detto che le minacce o gli sfoghi abbiano la forza di quello che pretende di fare sapere al mondo Di Matteo. Quando però Riina dice che non sa nulla di Mancino e dice che le Paleoli, che sono l'ultimo affare della mafia, nessuno indaga. Andate a leggere quello che dice Riina, nessuno indaga. Scusami, Vittorio, ti posso chiedere un'altra cosa? Che ne pensi di questa manovra di Renzi che ha fatto? Ridicola, quella di Renzi si è bruciato per sempre, perché il trust era molto facile ed elegante, te lo descrivo rapidamente, sì. Se vi lascio parlare 3 minuti, che è questo. Vai. Io vedo come Letta in difficoltà. Onore allo sconfitto, gli dico, va bene Letta, il tuo programma va bene, vuoi farlo, proponilo, non sarò io a sfiduciarti, sono il tuo partito, sono il segretario del tuo partito. Allora, ti chiedo, andiamo a fare le primarie per il Presidente del Consiglio. Sì. Chi vince sarà il candidato premier per le elezioni maggio, perché tanto in maggio si vota alle europee e fanno l'election day o quasi election day, non cambia nulla, il popolo vota comunque. Sì. A quel punto prendi il 44% e lo prendi veramente, perché sei stato onesto, sei stato alto, hai sfidato l'avversario, lo hai vinto e te ne importa un cazzo del premio di maggioranza, perché tanto per 4 anni sei stato alleato con quel deficiente di Alfano, è l'opposto della legge elettorale che chiedi, è una cosa grottesca. È insensato. E perché l'ha fatto, perché secondo te? Ah, non lo so, forse l'ha costretto il capo Stato mafia Napolitano, ma lui ha sbagliato lo stesso. Io spero che venga sfiduciato, o come tu proponga un monocolore, perché tutto è grottesco. Cioè tu da qui a maggio, che sono 3 mesi, potevi tutto e diventare il vero Presidente del Consiglio e ti sputtani con questa merda immonda. Ma com'è possibile? Sì, soprattutto sei costretto ad andare a fare le trattative con Sciolta Civica, con Alfano, con Quagliariello. Sì, ma soprattutto con gente che ha tradito e tradito la vita, pronta a darmi al culo per avere un posto qualunque e stare al governo. Sì, ma è così, sei costretto ad andare a fare la trattativa e dare quello strapuntino a quello, strapuntino all'altro, eccetera. Ecco, tutto. No, poi tra l'altro sei di 4 anni, per 4 anni tu vivrai alleato con Alfano. Sì, che vuol dire che il bipolarismo, come dico io, non c'è. Effettivamente, il bipolarismo era solo Berlusconi, tolto lui, vedi te Parenzo, dov'è che sareste bipolari? Dov'è che io sarei bipolare rispetto a Civati? Com'è questa storia con gli atti De Gasperi, Don Camillo Peppone? Non è vera, ci sono gli intelligenti e i cretini, al governo possono andare persone di centrodestra illuminate, Fisichella a un certo punto andò con la Margherita. Dove cazzo è questo bipolarismo grottesco? E per 4 anni stai alleato ad Alfano, che è un totale cretino. Vabbè. E poi vuoi fare la legge perché chi vince vince e chi perde perde. Ma che cazzo dici? Sì, è una contraddizione. Allora vai a fare le elezioni, vince con 40%, l'altro si riduce perché sai che farà ben poco il Berlusconi al voto vero. Nessuno ha osservato che ogni sondaggi, ma in Trentino, hanno votato qualche settimana fa, e dal 16% Berlusconi, con la sua inettitudine, è passato al 4%. Chissà perché il voto reale vale meno dei sondaggi. Vedrai in Sardegna come andrà. Forza Italia perderà la metà dei voti. In ogni caso, cosa c'è di meglio che votare quando Berlusconi non può fare la sua campagna televisiva perché ha gli arresti domiciliari o i servizi sociali? Quindi, da ogni punto di vista, aveva il vantaggio di poter vincere le elezioni come il vero vincitore. Poi vai a fare un accordo, ma è un accordo che tu fai avendo in mano la vittoria di 42, 41, 43 a 22. Insomma, ti è caduto anche Renzi. Vabbè, Vittorio, grazie. Ciao, abbraccio, ciao. Non siete seri per niente. J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Comunque sei un po' bruttarello, anzi forse sai, capito? E non rompere i tuoi coglioni perché sei anche maleducato, stupido. La bête qui pique, j'ai pile la musique typique au moustique. Daniele da Pisa, buonasera. E buonasera a voi. Dimmi. Niente, allora, io volevo dire questo, volevo praticamente, sentendo ora Sgarbi quello che diceva, dare pienamente ragione a lui sul fatto che la magistratura ormai non sta praticamente facendo niente di niente per far rispettare... Vabbè, quello è un ragionamento che riguarda i processi, quello. Sulla compravendita e altre cose ancora. Ma su Renzi? Su Renzi io volevo dire questo, io voglio ricordare soprattutto a tutti quelli del PD che stanno ascoltando ora la Zanzara... L'articolo 1 della Costituzione. Che non c'entra nulla. L'Italia però, è una repubblica democratica. E allora? Fondata sul lavoro. E che c'entra? Attualmente Renzi non ha fatto nulla di democratico. Lui ha preso una poltrona occupando il posto che non è suo né di diritto né perché ce l'hanno mandato gli elettori. E io con il movimento civico di cui faccio parte a livello nazionale... Stiamo organizzando una manifestazione per far capire. Vabbè, adesso non ce ne frega niente, il movimento civico, la manifestazione. Però scusa Cruciani, però diciamo adesso noi in tutti questi giorni abbiamo sparato su Renzi. Ma qui la democrazia non c'entra niente. Però che vuoi, ma non è che forse stiamo sottovalutando questo Renzi? Cioè questo ragazzo, bravo, che abbiamo apprezzato per la rottamazione, non è che forse c'ha un asso della manica che nessuno di noi ancora ha capito? Ma vedremo dalla scuola di governo, dalle cose che fa, vediamo. Non solo da quella scuola di governo probabilmente. Quale sarebbe l'asso della manica? Non lo credo, che è Rocco Siffredi. Non è possibile pensare... Cioè... No, Siffredi, diciamo, tu ha più di tua competenza, non lo so. Sì, ma no, avrà... Sono argomenti che non interessano a te. No, io non pratico quell'attività lì. Sì, non pratichi. Ma pratico, avrà delle... Una volta ti divertivi, adesso non ti diverti più. Ma no, ma Rocco Siffredi, sì, fa il suo lavoro da Los Angeles magnificamente, nei suoi set, delle sue cose. Vabbè, ma allora... avrà qualcosa... Cioè, perché un uomo così a 39 anni decide in un giorno di far sciogliere una carriera politica? Quindi avrà sicuramente. Adesso noi siamo stati forse un po' imprudenti, perché tra qualche giorno forse scopriremo l'asso della manica. Marco di Renzi. Da Reggio Emilia. Intanto Berlusconi ha elogiato il segretario del PD dicendo che stima Renzi perché non è comunista. Poi però l'ho attaccato, Letta sfiduciato da un sindaco di una piccola città. Sì, Marco, pronto? Dica. Sì, sente. Dica. Sì. Guardi, molto semplicemente, io sono un elettore di Renzi, ma sono a dir poco disgustato. Lui si è comportato peggio di D'Alema. D'Alema ha fatto fuori Prodi con una manovra di palazzo, ma almeno D'Alema era stato eletto in Parlamento. Renzi ha fatto fuori Letta con una manovra di palazzo senza nemmeno essere eletto in Parlamento. Vabbè, questo è un dettaglio però, che non sia in Parlamento. Beh, non è un dettaglio, è una sostanza. Non è in Parlamento. Anche Monti prima non era in Parlamento e è diventato senatore a vita dopo, quindi imita, non è che D'Alema, c'entra. Imita D'Alema, anzi fa molto peggio di D'Alema, voleva rottamare D'Alema ma si comporta peggio. Non credo che sia un buon inizio, insomma, è veramente obbrobrioso. Ma lei è un elettore del Partito Democratico? Certo, con la tessera del Partito Democratico. E che fa adesso? È o era? Che faccio? Mi guardo intorno, spero che sorgano nuove formazioni che non siano... Cioè non vuole più votare il Partito Democratico? No, non voterò Partito Democratico, non si può, a meno che, come dice Parenzo, ci sia questo asso nella manica, ma credo che sia molto, molto improbabile nella nostra... Comunque lei è disgustato da quello che ha fatto? Assolutamente. La zanzara è quell'odioso insetto. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao. Non vi abbandonerò mai. Oh, adesso non esageriamo, caro Emilio. È un po' di tempo che non sentiamo, no, il direttore, no? Fa piacere. Sì, un po', un po'. Ehi, ciao ragazzi. Ciao amore. Ti voglio bene, ciao. Io come fai a non considerare allucinanti le frasi che ha detto Raffaella Fico? Io non riesco a capire come fai. Ancora? Devo ancora spiegarti. No, come fai? La cioè, la, devo la, indignarmi per forza. Va bene, madre, mi indigno a comando. No, va bene, ma io non mi sono indignato. Mi stupisce che ti ho detto, mi stupisce che abbia fatto questa stupida polemica in televisione. Questo mi stupisce. Dopodiché, non è che devo ragionare. C'è sulle una frasi che dice: mia figlia deve andare per forza in prima classe, ma perché è la figlia di un calciatore. È una deficiente. Ma è chiaro che da così è una stupidaggine colossale. Basta, solo questo. Credo, e il fatto che l'abbia detto in televisione è una avanti ancora di più, perché ne dimostra la semplicità della persona. Beh, no, la semplicità della persona. Io non metterei i figli in piazza se sei una persona famosa, i figli te li tieni a casa tua, ma sono scelte della signora Fico. Ma quello, non mi interessa. E come no? Quello, quello fa parte della Fico, che dice che bisogna rispettare la privacy, e poi ogni volta. Appunto, questa è la critica che si può fare. Vabbè. Nel merito, di che cosa mi devo indignare? Sarà un classico litigio tra donna ed ex marito e compagno, non so ma come non si chiama. Ma non è quello, voglio mia figlia in prima classe nel treno, è una cosa diversa, è anche ridicolo se vuoi. Nella semplicità è ridicolo, è chiaro che è ridicolo nella sua stupidaggine. Mia figlia nel crescere saprà chi è il papà e nel vedere magari altri figli di calciatori, non so, un figlio di un calciatore viaggia in prima classe in treno, non vorrei che un domani mi chiedesse come mai noi viaggiamo in seconda e perché loro in prima, se anche il mio papà fa il suo stesso lavoro. Giulio da Milano, Giulio. Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi. Senta, io sono Ciao. Un elettore di centrodestra, però guardo con favore, cioè guardo positivamente la mossa di Renzi, però in questo senso, come strategia politica, non per cuore o altre cose. Cioè io credo che Renzi abbia capito che con l'attuale legge elettorale se va a votare perde. Se dovesse passare anche la sua legge elettorale, quella nuova che ha concordato, perde comunque, perché la capacità di aggregazione del centrodestra è più forte. Quindi fa quello che fa un leader forte, cioè gioca il tutto per tutto. Il tutto per tutto è provare a prendere il potere, diciamo pure il potere, eccetera, fare tutto quello che può fare come azioni e al momento delle elezioni, tra un mese, un anno, tre anni, quello che sarà, provare a compensare il gap della capacità di coalizione del centrodestra con questo alcune mosse concrete fatte. Oltretutto, se voi leggete anche i giornali, non sì, è ma che ho capito, è ma perché Squinzi gli ha detto a favore. Se andate a leggere le persone un po' importanti dietro le quinte dell'economia, cioè lui non è da solo. Scorrendo certo il Sole 24 Ore, il Corriere e tutti gli altri, non è che ha dietro soltanto qualche... No, ma questo non c'è dubbio, qualche potere forte, qualche... No, però industriali, eccetera, eccetera, sicuro. Si metta nei suoi panni, Renzi vuole fare il leader forte, sa che va a perdere. Ho capito, ha sempre detto che bisognava passare dalle elezioni. Va a perdere, chi l'ha detto che va a perdere con Berlusconi? Ma chi l'ha detto che va a perdere con Berlusconi? Chi lo dice? Chi lo sostiene? Ha sentito Sgarbi prima. Io sono d'accordo con lui, col cavolo che perdeva con Berlusconi. E comunque anche se perdi, poi perdi. Oh, ma che vuoi? Cruciani, il centro-sinistra è storicamente le ultime 3-4 settimane perde. Dilapida tutto il patrimonio. Vabbè, ma ho capito, ma questo qua non si può ragionare sulle previsioni di quello che poteva accadere. No, beh, allora, sondaggi, lui ha una carta sola e ce l'ha adesso. Ma non adesso. È vero, non ce l'ha adesso, ma c'ha 39 anni, non è vero, tra 6 mesi, come diceva Sgarbi, oppure anche tra un anno, sarebbe stata la stessa cosa, non con questa manovrina da palazzo. Però, per governare con Alfano, per andare a trattare con Sciolta Civica, con le due o tre Sciolte Civica che ci stanno. Alfano e gli altri, per non perdere qualcosa, si accoderanno. Ma ho capito. Ha ragione Parenzo. Lui avrà qualche carta in mano. Ma quale carta in mano? Che c'è l'arma segreta? Che c'hai? L'arma no, segreta? No, l'arma in mano. È chiaro, c'è l'arma in mano. Ha ragione quello che dice Parenzo. O ha fatto un accordo, o ha fatto già un accordo. Esatto. Per cui dice: faccio due cose, il Job Act e la riforma della legge elettorale, e poi me ne vado. Quindi colma il gap delle polemiche di questi giorni, in cui sicuramente qualche voto l'ha perso, per poi dire: sono riuscito col mio carisma, con le mie relazioni, a portare a casa questa roba. Questa è l'unica chance che ha. Certo, se rimane lì a cucinare. Fermi tutti. Un maialino sardo, è ovvio che perde. Pronto? Pronto, cara? Sì. Annarella? Un attimo. Che sta a fare questa? Anche lei ti dice sta a letto. È tutto finito. Sta a letto. Sta a guardare la televisione. Annarella? Poverina. Adesso un attimo. Sì, aspetta. Attimo. Pronto. Allora? Chi è? Giuseppe. E Parenzo. Vado di là, aspetta. Ma come vai di là? Vai di là dove? Casa Annarella. Perché c'è la televisione. Che c'è la televisione. Sente, a me abbassasse, no? Eh? Abbassa il volume. È al tuo servizio. Giuseppe. Giuseppe Cruciani, Davide Parenzo, la Zanzara. Ciao. Allora? E allora dire a Renzi che nasce a fanculo, che è uguale a Berlusconi. Perché? Perché sì. Ah, sbagliato dici, no? Chiacchiere sono chiacchiere di maccheroni in piena pancia, lo sa, sì. Com'è che com'è la storia chiacchiere di maccheroni? Che i maccheroni in piena pancia, i chiacchiere sono chiacchiere, i maccheroni in piena pancia. Ma perché? Ha sbagliato secondo te? Ma Dio che nasce a fanculo, lui è tutto Firenze. Ma perché? Che ha fatto? No, che Firenze, ha fatto? Non ha fatto niente, a me mi piace. Io ho detto stamattina lì, a Piazza Colonna, a Palazzo Chigi, ho fatto il casino, mi sono messa pure sopra un banchetto per predicare. Ma non ho capito, Annarella, l'ha incrociato o no? Non l'ha incrociato, lui stava a Firenze. A me non mi piace Renzi. Ma spiegami, ma che perché ha fatto fuori Letta con sta manovra, gli ha dato una coltellata, come mai non ti piace? Poi proprio mo che stava a cominciare a avere i risultati. E come I mai? Stizzoni lo mandano via. Beh, Stizzoni, pure il tuo partito. A quello che avete fatto qui a Coso, a come si chiama? A chi? Quello che è stato male là, che c'ho pure... Bersani. A Bersani. Io ho telefonato a casa. A Bersani? Certo. Ma veramente stai dicendo? Ma guarda che a me mi vanno bene tutti. E allora gli ha telefonato e che è successo? Ho telefonato alla moglie, mi ha risposto la moglie, ho parlato con lei due volte e poi ho parlato con lui. Ma è fantastica questa cosa. Che ti ha detto Bersani? Che mi ha detto? Io stavo a lui, passi i cazzi dei lavori, devi ritornare a Roma. E lui? Eh? E lui? Mi ha detto, dicono che sto bene, dice, ma io a me mi do la testa, mi ha detto. Gli fa male la testa ancora. Mm. Vabbè, oh. Allora adesso devo avere notizie sanitarie. Non è facile. Comunque a Letta gli hanno fatto proprio, sono stati proprio disumani. È stato proprio a tradimento, l'hanno preso. A tradimento. Hai visto proprio. Berlusconi come in forma? No, invece, sempre tirata, dai. Hai visto Berlusconi come in forma? È in forma Berlusconi. È in forma, va pure al Quirinale. Guarda che Renzi è uguale, identico a Berlusconi. Comunque Berlusconi è in forma, va pure al Quirinale. Anche la mignotta. Chi? Capito? Ma chi? Renzi dici? Eh? Renzi dici? Vabbè, ma è sempre del Partito Democratico. Ma com'è? No, qua si sente male. Aspettami un attimo. Ah, a ridargli un'altra volta. Ma che ne so, signore? C'ha 40 telefoni. Ma poi c'ha vaga da una stanza all'altra. Beh, poverina, che deve fare? Una cosa incredibile. Il suo plaid. Eccoci qua. Tesoro, ma hai mangiato la minestrina oggi o no? No, stava pigliando il culo, mi sono fatte fettuccine e pure parmigiani, fettuccine all'uovo, perché il mio cagnolino gli piacciono solo le fettuccine all'uovo, a burro e parmigiani. Ma che fettuccine? Aspetta, hai mangiato la minestrina leggera, ferma, che ti mangi? Hai fatto le bene le fettuccine, un attimo solo, fermiamoci, torniamo subito con Anarella, un attimo. Senza che più di una ballerina. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa. Ormai è tutto degradato ormai. No, è lei che deve andare, ma da un veterinario, non in un ospedale normale, in una clinica per animali. Si ha maledetto che ha detto che non si può spruzzare lì di lì. Annarella? Oh, ma non si sente, ma con me? Ma come non si sente? Si sente benissimo. Ecco, a volte sento meglio. Allora, ma davvero Renzi ti fa così schifo? Sì. Ma... Io ho detto in faccia. Ma no, in faccia, non l'hai... Ma come no? Io ho detto al partito. E che gli io hai detto? Io chiamato tutti i giorni, pure a San Martino sono stato al partito. E che gli hai detto? Gli ho detto che fai schifo. Ma veramente? No. E lui? E lui mi ha risposto, mi ha dato pure il bacetto. Ma sì, se ne frega alla fine, dai, su. Se ne frega. Ma tu non sei... A te te piace Renzi? No, ma non, beh, no, sì, quello che piaceva molto, mi certo. piaceva prima, quello che ha fatto adesso non mi piace. No, mo forza, ma che se pensa agisce a questa maniera? Fino a ieri dice rimani là e poi dopo far casino. Ma vaffanculo, a te chi ti ha dato il voto? Io non sono dato, gli ho detto un faccia. Anzi, però... c'è sta pure il costo delle... lì a Piazza Colonna che io ho detto a uno che mi ha intervistato io Renzi non lo penso per niente, non sono d'orbuto da cuperlo. Scusa un attimo, ma sai che Grillo martedì andrà a Sanremo? E che va a fare? Pippe? No, come Pippe? No. Andrà prima fuori dall'Ariston e poi dentro a fare casino. Solito. A far casino a Grillo poi ti dico, cioè, ieri non ci sono nata perché non mi sento bene, devo fare l'infiltrazione alla spalla. Senti, alla spalla, perché... l'infiltrazione. Ah, sono vecchia, mi devo fare infiltrazione perché mi dolore. E allora? Allora, che è successo? Non ci sono potuta andare, che ci andavo ieri, tiravo i capelli a quel fregno brutto che sta con Grillo, come si chiama? Non mi ricordo. Casaleggio. Mai Casaleggio, il fregno brutto. Casaleggio. Casaleggio, non mi ricordo mai quel nome sulla bocca. Lo so, quello che c'ha i capelli lunghi, no? Quello che c'ha i capelli pronto. Lunghi. Ma perché non ci sei andata? Quello che c'ha i capelli lunghi. Oh! Oh! Annare! Annarella! Urlo alla luna e al sole, le mie inutili parole che nessuno sta a ascoltare. Allora ho voglia di bruciare, gridando a squarciagola, come Savonarola. Come Savonarola. Finardi un grande, eh? Beh, Finardi è un grandissimo, eh? Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Ma che c'entra adesso questo? No, Fossati, Finardi, tutti i grandi. Ma che c'entra? Che c'entra? Quello è... Fossati è canzone popolare. Ma non c'entra niente. Ma cioè... mi è venuto in mente anche la canzone popolare, ma pensando a quel periodo. Ma non c'entra niente, fai sentire, fammi sentire Finardi. Ho controllato, ma non son tipo da tacere. Io in fondo sono quello, un disperato masaniello che oramai può solo urlare. Mentre economisti e professori spacciano prediche e valori per poterci poi sfruttare. Alla luna e al sole, le inutili parole che nessuno sta a ascoltare. E allora ho voglia di bruciare, gridando a squarciagola, come Savonarola. Sai che la voglio utilizzare per dei pezzetti della trasmissione? Credo. Ma è con noi, è con noi Eugenio Finardi, buonasera. Ah, c'è. Buonasera. Come stai? Come stai? Bene, bene, bello sentire al telefono la mia canzone. La mia preferita è Scimmia, comunque, che Cruciani non conosce. Ma è vecchia, non... questo è un album nuovo. Ma che c'è, è... ma quella è stupenda. L'ha detto perché stai confessando qualcosa di te che forse bravo. Non vorresti. Esatto. La canzone senti, di Scimmia. Eugenio, ti leggo che cosa ha detto oggi un signore che si chiama John Elkann. John sì. Elkann, conosci la famiglia Elkann? Certamente. No? A proposito... è il presidente della Fiat. Esatto. A proposito del lavoro e dei giovani, il problema dei giovani, ha detto, è che non hanno la giusta determinazione a trovare un lavoro, forse non hanno una reale voglia di cogliere queste opportunità perché non ne hanno bisogno, perché stanno bene a casa, oppure non ci sono sufficienti stimoli o non hanno la giusta ambizione a fare delle cose. Insomma, il lavoro c'è, ma non hanno la giusta determinazione, stanno bene a casa. Questo dice il signor John Elkann. Magari sarà anche in parte vero, però secondo me non lo può dire il signor John Elkann, cui tutto è piovuto dal cielo, cui tutto è piovuto dal cielo, sì. Diciamo la verità. Assolutamente. Ma c'era anche quell'altra che diceva che i giovani sono choosy. Esatto, è una nuova versione, è una nuova uguale. Versione del choosy. Di questo stile. Una nuova versione del choosy. Senti Eugenio, ma tu che ne pensi di questa staffetta, di cui si parla da giorni, Renzi, Letta, che dici? Tu che sei così rivoluzionario. È normale nella tradizione del Partito Democristiano, voglio dire, no? Non è questo che vuol dire PD? Cioè, secondo te proprio siamo alla DC? Sì, ma siamo da anni della DC. Cioè... Ma chi è che ti sta più sulle palle? Beh, è difficile dirlo, è veramente molto difficile. Cioè, tra Renzi e Letta? Sì. Cioè, è una bella gara. Renzi? Renzi lo trovo... Beh, sai, io sono un vecchio militante del PC, quindi... Sì, che non esiste più, Renzi, però. Sì, lo so, però io sono rimasto quello di allora, cioè ho sempre tenuto la barra dritta. Mi davano del moderato riformista negli anni 70, minacciandomi anche di morte, quelli che poi sono diventati craxiani e berlusconiani nel decennio seguente. Quindi io invece sono rimasto quello che ero allora, un diciamo adesso sì, mai stato stalinista, mai letto Marx, però... Vabbè, uno dalla vecchia sinistra. Credo, uno no, dalla credo che ci vorrebbe una società più libera e più sana, come dice quella canzone che abbiamo appena sentito. Ma insomma, la giustizia sociale, si vive bene in una società che è giusta. Ma Renzi non è di sinistra. Dunque Renzi secondo te è uno di destra, questa è la sostanza. Beh, guarda, Renzi ha detto e fatto alcune cose. Prima è stato al Family Day, quindi risulta. Quindi voglio dire, già è una dichiarazione di intenti tanto tempo fa. Poi ha detto che il liberismo è di sinistra, il che vuol dire che non sa che cos'è la sinistra neanche se gli morde una chiappa. e poi non ha fatto passare la web tax. La web tax, per dirla chiaramente, perché poi si usa, poi tra l'altro uno che dice Jobs Act è quello di Steve Jobs, quello dell'Apple. Se vuoi parlare di lavoro devi dire Job Act, questo te lo dice un americano. Ti sta quindi, sulle palle sta roba qua. No, solo questo uso dell'inglese male, che è come se io parlassi male in fiorentino, cioè perché? Cioè parla come mangi e chiamalo atto del programma sul lavoro, no? Che mi piace di più. Comunque uno di destra secondo te? Ma sì, è uno che non, no, ma più che altro è uno che non sa cos'è la sinistra, cioè il problema adesso è che non c'è la sinistra, non c'è e questa roba che ha fatto a Letta, questa operazione che noi abbiamo definito un'operazione di palazzo vergognosa, lui aveva sempre detto che sarebbe andato al voto con le elezioni, non ti interessa oppure è un ennesimo di... Sono dettagli, cioè io sono così stufo, cioè guarda, io guardo a sto punto mi guardo come si chiama, Grey's Anatomy piuttosto, cioè, quello pure io devo dire da la verità, parte, capito, ti trovi, cioè molto più interessante se non dovessi farlo per lavoro, se non dovessi farlo per lavoro purtroppo devo darti ragione, tanto si ripetono Ma io sono sempre stato un appassionato, cioè io sono un, sai come la gente è tifosa di calcio, io ero un tifoso politico, cioè leggevo sia due riviste americane, giornali di 3-4 paesi, cioè avevo la CNN sempre acceso, la BBC, Beh, l'unità la legge ancora, però. No. No. Ma no, ma che legge? No, ma che non leggo, no, non il manifesto. Senti, Grillo invece che pensi di Grillo? Condivido molte istanze dei grillini, trovo che siano giustamente furibondi per molte cose, fanno i compiti, parlo dei grillini. Poi lui invece bisogna vedere come chi dirige, chi c'è dietro. Anche a Renzi è un'operazione di marketing. Cioè. No, ma Grillo, spesso non ne vuoi parlare, hai una certa ritrosa. Non voglio parlare perché non si può criticare, cioè è intoccabile, poi dopo in rete ti massacrano. Addirittura hai questa paura? E lui deve vendere i dischi, sì, scusa. Io vendere i dischi tanto ormai non vendono più, quelli che dovevo vendere li ho venduti. Però non è quello il problema, è proprio la questione del... Cioè, mi sembra che ti hanno un po' aggredito quando sei andato da Fazio, sbaglio? Sì, si sono molto arrabbiati, ma si arrabbiano facilmente. Cioè io ho detto una cosa intendendo la Lega, ho detto populismo localista e demagogico, mi sembra che è abbastanza ovvio, no, che cosa intendessi. E invece qualcuno ha pensato che fosse un attacco ai 5 Stelle. Ma ti fanno un po' paura? Ti fanno un po' paura quando... Esattamente sì, cioè questo tipo di... il fanatismo, ma mi faceva paura negli anni 70 quello del come si chiamava, i gruppuscoli, allora i marxisti, leninisti, queste cose qui, sai, tutti i fanatici mi fanno paura in generale. Urlo alla luna e al sole, le inutili parole che nessuno sta a ascoltare. Davide, ti faccio ascoltare alcune uscite recenti di Finardi, un po' per farti capire il personaggio, eh? Sì. Quella sulla grande industria, per esempio i giornalisti assassini, Eugenio, com'era? cos'era? No, no, era sulle, sulle era a te ti dà fastidio la mentalità consumistica, ti dà fastidio ti dà no, fastidio. mi dà fastidio il liberismo, cioè allora mi danno fastidio le ideologie, come lo stalinismo era la perversione dell'ideale sociale, ma non dimentichiamoci che anche il nazismo si chiamava nazionalsocialismo, che Mussolini era un socialista, così mi dà fastidio, cioè mio padre era un liberale, era un dirigente, era un bocconiano, quindi non voglio dire, vengo da quel ramo, poi sono diventato un liberal all'americana. Allora? Quando mia madre era piccola mi diceva, non dire che tuo padre è liberale in America because it means communist, capito? Cioè, perché in inglese vuol dire comunista. Vabbè, comunque era un dirigente, era un dirigente, pagava 10 volte quello che prendeva uno dei suoi operai, no? Uno di quei degli operai. Tu dici adesso ne prendono troppo. Adesso ne prendono, cioè c'è una sproporzione nella ricchezza e nella povertà che è repellente, no? Poi ti dà fastidio, per esempio, una volta te ne sei uscito dicendo chi usa i soldi per farsi per rifarsi, per esempio. Vabbè, ma che ti frega? Quello, ognuno spende i soldi come vuole. No? Beh, no, sì, per automutilarsi, l'automutilazione credo che sia anche un reato. Cioè, voglio dire, vedere certe donne che si vedono. Però è una forma di libertà, uomini. No, Eugenio, scusami, se uno è una forma anche di libertà, dice io voglio rifarmi il sedere. Allora è una libertà anche farsi le pere a questo punto. Beh, tutto sommato sì. Le pere ci si può rifare, ci si può fare il silicone, non capisco. Beh, ma il silicone, allora, io silicone. Io che glielo proibisco, però la mia libertà è dire che che ti fa schifo, che mi fa schifo, cioè che mi fa impressione, anche perché poi invece le donne che non lo fanno sono estremamente belle e luminose, ho dedicato. No, ma anche a me piacciono di più le donne che non lo fanno, che eccetera, però non è che dico che mi fa schifo quello che lo fanno, mi fa schifo ogni tanto qualcuna che si rifà male, quello sì. Trovo che sia proprio una paura di se stessi, un rifiuto di invecchiare, anche la paura di invecchiare, cioè io non so, credo di essere uno dei pochi nel mondo dello spettacolo che non si tinge i capelli. Ciao Eugenio, grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie a voi. Fibrillante, fibrillante, ciao. Grazie. Urlo alla luna e al sole. Rosario da Bari, Rosario, buonasera. Buonasera. Dimmi. Buonasera, signor Luciano, bentornato anche a Parenzo. Grazie. Allora? Senti. Niente, volevo ribadire tre concetti che avete espresso oggi. Tre. Uno riguardo la signora o signorina Fico, quando lei ostentava la sua verginità, beh, quello che ha detto. Quale verginità? Che c'entra la verginità? Tempo fa dichiarò di voler vendere la sua verginità, credo. Ma non lo so, non mi interessa adesso, questo qua è un altro l'unica discorso. L'unica cosa vergine che gli è rimasto fuori è il cervello, visto quello che ha detto. Vabbè, poi? Ecco. Poi per quanto riguarda il signor Pellegrini, sì. Pellegrino? Sì, Pellegrino. A proposito di Pellegrini, c'è qualcos'altro da aggiungere su Pellegrini? Partiamo con Padania, guarda avanti. Sì, c'è qualcos'altro da aggiungere. Ha detto ancora qualcosa? Sì. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guardavano. Se ascoltate la Zanzara, almeno lo fatemelo sapere, perché se mi nasce questo aspetto, prima mi sento sporcato dentro, mi sento inzozzato, mi sento lordato, mi sento un po' da schifo. Cioè già problemi di autostima, tutti i problemi che vi comunico, che condivido con voi. Anche quello no, basta, quello proprio non ho bisogno, non mi interessa. Poi a un certo punto ti fa gli auguri, ma c'è anche Varin. Sentiamo. Insieme. Barin, no, la mattina. Sì. 6:29 minuti primi, grazie a Dio e grazie a un virus, Cruciani e K.O. No! Così smette di parlare di gay e dire volgarità, è un erotomane, morboso. E poi deride anche voi, ciao Varin. Ma no, gli facciamo tanti auguri a Cruciani, cacchiolina. No, non va mica bene, Non va mica bene, senza Cruciani come facciamo? Noi abbiamo un bacino d'utenza immane, immenso. Anche qui alle 6:30 del mattino il Padania Sveglia del Sammy Varin è ascoltato anche da molta gente davvero lontanissima, lo so che ci siete, lontanissima. Massimo Verona, buonasera. Pronto? Dimmi. Sì, volevo dire un paio di cose. Una, innanzitutto volevo rifarmi al discorso prima di di Renzi che aveva fatto mille promesse per farsi eleggere, ma poi alla fine praticamente siamo tornati indietro all'Unione Sovietica, nel senso che ormai qui i governi decidono le riunioni, la segreteria del Partito Democratico. Vabbè, non esageriamo adesso, l'Unione Sovietica è stata... Sì, è un'operazione comunista. No, quello, comunista, no, cioè... l'operazione, ma che comunista, l'operazione di Palazzo, sì, la manovra di Palazzo c'è. Sì, sì. La manovra di Palazzo c'è, però non bisogna esagerare, eh? Cioè non bisogna esagerare. Comunque, la manovra di Palazzo, punto e basta. Un po' così. E poi volevo, insomma, no, ma se la fa, se la fa qualcun altro, non stupisce, questo è il punto. Se la fa, siccome la fa Renzi, oddio, è quello... lui veramente, lui aveva pensato, insomma, si era presentato come una novità e rottamatore, ma è appunto, diciamo, per questo, è questo il punto. Se la fa un altro, chi se ne frega. Fabio da Brescia. Massimo, stia zitto un attimo. Fabio da Brescia. Cruciani, dimmi. Ciao, velocissimo, sto chiudendo. E la politica, sei tu il primo a dirlo, è sangue e merda. E quindi non diciamo, non aggiungiamo altro. Vabbè, va bene, che vuol dire? Io sto dicendo sangue e merda e dunque va bene. Renzi è stato cinico, spietato e tutto quello che vogliamo. Ma lui si presenta in un altro modo. Certo che per me è sangue e merda la politica, dunque ci sta pure il complotto di Renzi. Ma lui si presenta in un altro modo, è questo che voglio dire. Ma ci sentiamo lunedì, se siamo vivi, 18.30, ciao. Ma hai capito, ma qui trombano tutti, io sono la nominata e tutti gli altri trombano, non hai capito come funziona qua. Però alla fine io lavoro e gli altri trombano, hai capito? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione. Lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Radio 24. La passione si sente.